e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, Nicoletta, ieri abbiamo parlato della giornata dell'AIDS, una bellissima puntata. Oggi anticipiamo un'altra giornata che però si celebra domani. Quindi giochiamo d'anticipo. Esattamente. Allora, il 3 dicembre è la giornata mondiale della disabilità. Una giornata istituita nel 1981 per promuovere una coscienza più capillare e responsabile sui temi della disabilità, per promuovere la massima inclusione sociale delle persone portatrici di handicap, allontanando ogni forma di discriminazione. Peraltro questa giornata mondiale poi da luglio del 93 è diventata anche, per iniziativa della Commissione Europea, giornata europea delle persone con disabilità. E allora, come ci siamo anche dette ieri a proposito del reddito minimo garantito come strumento di restituzione della dignità alle persone con difficoltà, pensate a quanto sia importante in questo senso partecipare anche al mondo del lavoro, no? E proprio per queste ragioni, dal 3 al 10 dicembre, l'Agenzia per il Lavoro ADECCO sta organizzando tutta una serie di iniziative, fra cui la segnalazione alle imprese che si avvalgono dei suoi servizi, di quei curriculum di persone appunto che sono portatrici appunto di handicap e che possono però essere utilmente impiegate. Per cui noi abbiamo voluto raccontare questa esperienza. Intanto saluto subito Claudio Soldà, direttore responsabilità sociale di imprese e relazioni istituzionali di ADECCO Italia, oltre che segretario generale della Fondazione ADECCO per le pari opportunità. Dottor Soldà, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro, oltre a raccontarci questa iniziativa, ci spiegherà anche le modalità con cui il Jobs Act è intervenuto direttamente, rimettendo mano al regolamento che riguarda il collocamento mirato per i disabili. Insomma, noi oggi nella prima parte di Cuore e Denari parliamo di disabilità e lavoro e naturalmente aspettiamo tutte le testimonianze dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Mentre nella seconda parte cambieremo decisamente argomento, torniamo ad occuparci di tiroide, questa piccola ghiandola a forma di farfalla posta proprio alla base del collo, che però lavora molto in realtà. Ma sì, ne fa di tutti i colori, no? Fa tantissime, tante diverse funzioni, ma direi tutte fondamentali per la nostra salute e il nostro benessere. Negli ultimi anni sembra che la povera ghiandola si ammali di più, lavori male o troppo poco, si infiamma, diventa sede di noduli o di neoplasie. E proprio di tumori parleremo oggi, concentriamo proprio la nostra attenzione su questo tema perché i tumori sono cresciuti di oltre il 200% nell'ultimo ventennio. Fortunatamente nella grande maggioranza dei casi questi tumori sono scarsamente aggressivi e facilmente curabili, tanto che si può parlare di completa guarigione in quasi il 95% dei casi. Ma perché ne parliamo? Perché i medici, gli addetti ai lavori segnalano questo allarme, questa crescita e invitano a intercettarli precocemente perché non danno luogo ad alcuna sintomatologia e vengono scoperti infatti spesso casualmente quando si apprezza palpando con un'ecografia un nodulo all'interno della tiroide. E allora oggi parleremo anche di noduli, di queste formazioni generalmente benigne ma molto frequenti, interessano una persona su due, sono naturalmente un aumento o meglio se ne diagnosticano sempre di più tramite ecografie fatte magari per altri motivi. È capitato anche a voi? 800 24 00 24 per parlare con la nostra esperta. Non per tutti è facile integrarsi nel mondo del lavoro, specialmente per le persone con dei problemi di handicap. Lavorare in un'azienda importante mi sta insegnando molto. Ho ripreso fiducia in me stessa e sto imparando molte cose nuove. Inoltre mi permette di continuare a coltivare la mia passione, montare a cavallo. Abbiamo voluto iniziare subito la nostra parte di denari con questa testimonianza che dice già molto sul tema che tratteremo. Invitiamo anche voi intanto ad inviarci testimonianze come questa. Se volete all'800 24 00 24, la persona che ci ha regalato queste parole, l'abbiamo anche in linea con noi. Buongiorno ad Antonella, non so se dire sì o no il tuo cognome Antonella, buongiorno intanto. Buongiorno, facciamo buongiorno anche a meno. Grazie di essere con noi, atleta paralimpica della disciplina dell'equazione. Dell'equitazione. Magari anche dell'equazione, cosa che per me e Deborah sono assolutamente un tema sconosciuto. Stamattina stiamo partendo un po' in salita. Allora, Antonella, oltre ad essere un atleta, naturalmente ad un certo punto della tua vita hai anche capito che una posizione professionale avrebbe rappresentato per te un importante strumento di sostegno economico, mi sembra il minimo, ma anche di autoaffermazione. Ce la vuoi raccontare la tua storia? Ma sì, la mia storia è molto bella. Buongiorno Claudio, intanto ne approfitto anche per salutare Claudio. Soldati ha detto, sì. Buongiorno. Buongiorno, sono molto contenta di raccontare questa storia perché è una storia molto bella e incoraggiante secondo me per tante persone. Io ho la sclerosi multipla, quindi sono una persona disabile, cammino con le stampelle, insomma ho parecchie difficoltà nel movimento e ho iniziato a fare appunto questa equitazione paralimpica che poi in breve mi ha portato poi nella squadra nazionale. Ovviamente non si campa di sola gloria, ma c'è bisogno appunto anche di lavorare non solo per un aspetto economico, ma anche per mantenere una sicurezza, diciamo, nella vita, no? Certo. Che a noi disabili spesso e volentieri, anzi quasi sempre, ci manca. E la sclerosi multipla, diciamo, è una grande maestra di creazione di fragilità nella vita delle persone. Chiarissimo, Antonella, certo. Sì. Detto questo, sono venuta a contatto con la Adecco proprio grazie al mio sport, perché la Adecco si occupa dell'inserimento nel mondo del lavoro proprio degli atleti disabili, sicché per me è stata proprio una scoperta, e qui parliamo ancora del 2006-2007, no? Devo dire che questa cosa mi ha reso felice, ha cambiato completamente la mia vita. E certo, anche emotivamente più forte, immagino. Il primo impiego nel settore delle telecomunicazioni, esatto. Antonella? Esatto, un impiego in una grande azienda nel settore delle telecomunicazioni, abbiamo già capito di quale si tratta, poi non è importante, è importante che tu sia stata contenta, poi da lì loro non hanno potuto tenerti, sei stata assunta in una grande insegna dell'abbigliamento sportivo. Esatto, e sono stata assunta da poco in Decathlon e questa è stata un grande risultato. Certo. Perché io inoltre ho 54 anni, quindi non è facile essere inserita al giorno d'oggi e trovare lavoro e in un posto come questo. Anche bello dinamico, immagino, infatti interessante, no? Lavorare in un ambiente come quello, poi per una sportiva come te, esatto. Il coronamento, ecco, esatto. Adesso... E fa parte proprio un po' della Fondazione Adecco il fatto di riuscire comunque a inserirti diciamo nel canale migliore, nell'argomento migliore per noi, per gli atleti che siamo seguiti da loro. Loro mi hanno insegnato a fare dal curriculum fatto bene proprio alla domanda di lavoro, mi hanno fatto fare dei corsi di informatica, mi hanno un po' formato. Al presentarti come si deve in questo momento nel mercato del lavoro, che ha tutti anche i suoi bisogni, le sue esigenze. Antonella, grazie molte, in bocca al lupo per tutto. Voi. Purtroppo devo salutarti, ma magari cercheremo di valorizzare in un altro modo la tua bellissima storia. Vado subito al dottor Soldà. Auguri Antonella. Esatto, infatti. Poi un saluto a tutti, buon lavoro. E un grazie. Abbraccio. Dottor Soldà, lo scorso anno Adecco ha avviato 636 persone con disabilità al lavoro. Ci spiega di che tipo di disabilità stiamo parlando, in quali settori li avete collocati? E diciamo che se posso permettermi un invito, perché poi anche voi spesso fate riferimento all'importanza del linguaggio, nella definizione delle persone con disabilità utilizzerei esclusivamente questo tipo di parole, persone con disabilità, perché spesso poi si esula e si va verso concetti dell'handicap, portatori di handicap, eccetera, che come dire sono un po' superati, ecco. In realtà poi l'handicap lo pone la società in cui viviamo, perché non è in grado di rendere inclusivo il percorso appunto delle persone con disabilità. Però chiudo questo invito per rispondere alla sua domanda. Noi lavoriamo in media ogni anno su questo numero di inserimenti, che sono, devo dire, in realtà legati alle tipologie sia di mansione che alle tipologie di comparti di tutti gli inserimenti che facciamo. Qui non c'è una diciamo così, una specifica legata alla persona con disabilità, proprio perché cerchiamo di lavorare sulla discriminazione delle competenze professionali e non su quella che riguarda le condizioni di salute. Quelli sui quali abbiamo avuto maggiori riscontro sono il settore alimentare, quello del comparto alberghiero e della ristorazione e dell'industria metalmeccanica, con profili diversi, quindi dall'operaio generico all'operaio specializzato, all'impiegato, contabile, insomma tutti i profili che in qualche modo rientrano tra quelli richiesti in questi comparti, e in particolare nelle regioni della Lombardia, del Lazio, del Veneto e del Piemonte. che sicuramente sono forse più, almeno negli ultimi due anni, più reattive sul tema dell'inserimento delle persone con disabilità. Chiarissimo, dobbiamo fermarci, dottor Soldà, perché adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi ci spiegherà che cosa fa la vostra fondazione, la Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, perché state lavorando su un gruppo di progetti nello specifico, soprattutto poi ci spiegherà come raccogliete le candidature di queste persone e che tipo di lavoro fate voi per incrociare la domanda con l'offerta. E poi andremo anche alle novità del Jobs Act, perché come sapete c'è anche tutta una normativa che obbliga le aziende con un tot di dipendenti ad accogliere al loro interno anche le persone con disabilità. Ci sono stati dei cambiamenti nell'ambito appunto del quadro regolatorio, ve li spiegheremo. Intanto vedo già molte telefonate all'800 24 00 24, questo ci fa molto piacere. Arriviamo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Eccoci ritrovati nella prima parte di Cuore e Denari, stiamo parlando di disabilità e lavoro. Aspettiamo le vostre testimonianze all'800 24 00 24, ma anche al numero di SMS, anche su WhatsApp ce ne stanno arrivando. Vedo Nicoletta che sta monitorando. Ecco, non me ne perdo uno. Poi ne diamo qualche lettura naturalmente. Abbiamo anche Francesca da Roma, con noi ancora il dottor Soldà di Adecco, Fondazione Adecco per l'Italia. Se la disabilità tocca a voi o a un vostro familiare, se avete cercato delle opportunità nel mercato del lavoro, ovviamente compatibili con la vostra disabilità o quella del vostro caro, come vi siete mossi, come vi hanno accolto, se siete a conoscenza di esperienze positive, naturalmente raccontatecele e saremo contenti appunto di condividere questo tema insieme a voi, ma anche quelle non positive, perché naturalmente è proprio quello che non va, che è più utile condividere per cercare di trovare anche dei miglioramenti. Peraltro vogliamo ricordare che c'è un'iniziativa importante in questo senso, firmata proprio da Radio 24, portata avanti dal nostro Gianluca Nicoletti con Melog, ma che coinvolge noi tutti della radio, la campagna Anche noi disabili, che ha il compito di diffondere cultura sui problemi quotidiani delle persone disabili, costretti a confrontarsi ogni giorno con ambienti che spesso non sono strutturati per loro e sono strutturati invece unicamente sui bisogni dei cosiddetti normodotati. Radio 24 ha creato a questo scopo un numero verde, una mailbox destinati a raccogliere ogni segnalazione da parte dei diretti interessati. Vi do l'indirizzo, che è anche noi disabili @radio24.it. il numero verde per lasciare messaggi vocali è 800 00 24 00, quindi è un po' il contrario del nostro solito numero verde. Dottor Soldà, Fondazione Adecco Italia, come raccogliete le candidature di queste persone? Che tipo di lavoro fate per incrociare domanda ed offerta? Sì, diciamo, teniamo distinte due, diciamo così, tipologie di persone con disabilità che si affacciano o cercano lavoro. La prima è quella che in realtà è in grado di offrire delle competenze immediatamente utilizzabili al mercato del lavoro, e questo gruppo in qualche modo soffre di quelle che sono le difficoltà, le criticità occupazionali del nostro paese in generale, quindi di tutte le persone che cercano occupazione. E poi c'è un altro, diciamo così, gruppo di persone o tipologia di persone con disabilità che sono in realtà come dire, svantaggiate dalla condizione che vivono, al punto tale che non sono neppure in grado in autonomia di cercare lavoro e non hanno in quel momento delle competenze da mettere a disposizione sul mercato del lavoro. Ma questo per questa differenza, per far capire come interveniamo sul fronte Adecco come agenzia per il lavoro e come invece dall'altra interveniamo come Fondazione Adecco. Sono due realtà distinte, si occupano entrambe certo, diciamo, del mercato del lavoro, necessariamente interfacciarsi, esattamente. Però sulla prima tipologia di persone che ho indicato c'è il canale tradizionale, quindi le candidature arrivano attraverso l'iscrizione sul sito e attraverso il contatto che c'è negli uffici di Adecco sui territori, e quindi entrano nei processi tradizionali che fanno una valutazione di quelle che sono le capacità professionali, le esigenze, le aspirazioni, e poi si lavora nei processi tradizionali sull'incontro con le aziende. L'altro invece tipologia di persone che seguiamo con progetti specifici della fondazione richiedono invece percorsi, come dire, molto più articolati. Uno era quello a cui faceva riferimento prima Antonella, che è intervenuta raccontando la sua storia. Perché? Perché arrivano da situazioni per le quali la necessità principale è quella di offrire loro degli strumenti per potersi muovere in autonomia con un minimo di efficacia nel mercato del lavoro. Quindi la costruzione di un percorso che preveda l'identificazione di quelle che sono le competenze, di come intervenire a livello formativo se queste competenze non ci sono e di lavorare con loro per costruire sia il curriculum che l'effettiva ricerca di lavoro insieme fino ad individuare l'azienda che poi è in grado e ha intenzione di utilizzare le competenze certo. di quella persona. Allora, dottor Soldà, a noi piace molto andare sul pratico con Nicoletta Carbone con Cuore Denari, per cui raccogliendo la testimonianza e la necessità di Francesca da Roma, lei deve dirci poi concretamente appunto cosa fate. Vediamo se possiamo essere utili a questa ascoltatrice. Sì, Francesca, benvenuta. Buongiorno, grazie Nicoletta, grazie Deborah per aver proposto un argomento così interessante che mi tocca così, sembra fatto per me. Allora, io dunque ho la residenza, sono in Sardegna, ma mi sono dovuta spostare a Roma, la disabilità del 75% e purtroppo ero istruttrice di equitazione, tecnico di riabilitazione equestre e psicologa. Adesso mi trovo che per, tra virgolette, gentilezza mi hanno preso a lavorare in un centro ippico in segreteria così, ma capisce, mi sento completamente... Non valorizzata, assolutamente. Ho 56 anni, ormai sono diciamo quasi nel cassonetto, per così dire. No, Francesca, non dica qualche... così. Noi non vogliamo sentire queste cose. Ecco, no, però voglio dire, mi sento lavorato, sono stata. Ci rendiamo conto che è un momento di difficoltà, esatto, che sta che affrontando. La frustrazione può essere un po' esasperata. Quindi, Francesca, allora vediamo un po' che tipo di biglietto da visita ha? Lei ci ha detto un pochino già le sue competenze, le esperienze che ha fatto, che cosa può offrire la Deco in modo tale che le possano dire venga da noi e vediamo se possiamo studiare un percorso di reinserimento per lei. Guardi, le mie esperienze precedenti appunto come curriculum formativo sono psicologa, mi sono specializzata in equitazione per disabili e per i bambini, sono stata per 6 anni nella federazione nazionale come responsabile di centri ovviamente lo sport nazionali e ho più che altro la mia è una sperimentazione sui bambini molto piccoli, sull'equitazione come attività socializzante, il cavallo come strumento, anche la mia tesi di laurea il cavallo come strumento di abilitazione e riabilitazione ma tanti anni fa e quindi ecco io vorrei continuare ad aiutare nella sperimentazione, nella programmazione nel... Grazie Francesca, ci ha raccontato tutto. Grazie, perfettamente Francesca. Allora noi già abbiamo avuto questo tempo oggi tirannissimo, dobbiamo sentire il giornale radio, facciamo riflettere un po' Claudio Soldà su questo caso e magari traendo spunto dal caso di Francesca cercheremo di dare anche delle indicazioni generali e concrete agli ascoltatori nelle situazioni simili appunto su come possono ben presentarsi anche per rimettersi nel mercato del lavoro anche se stanno vivendo appunto una situazione così complessa. Tra poco. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Cuore e denari. Eccoci ritrovati insieme, ancora buona giornata. Da Cuore Denari. E allora stamattina stiamo parlando di lavoro e disabilità, il tema che stiamo trattando oggi alla vigilia della giornata mondiale della disabilità. Disabili che naturalmente sono spesso fuori dal mercato del lavoro ma hanno anche tutte le carte in regola per poterci rientrare a pieno diritto, perché poi stare nel mercato del lavoro significa anche dare una dignità alla persona che merita completamente. Con noi quest'oggi Claudio Soldà, direttore responsabilità sociale di imprese e relazioni istituzionali di Adecco Italia, segretario generale della Fondazione Adecco per le pari opportunità. Abbiamo chiamato questa agenzia per lavoro perché proprio questa settimana darà vita a tutta una serie di iniziative per fare in modo che domanda e offerta in questo mondo si possano incontrare nel miglior modo possibile. Abbiamo sentito già alcune testimonianze, ma dottor Soldà, prima di sentire anche quella di Pierre, che abbiamo svegliato brutalmente ed è a New York, un'altra persona che voi avete aiutato a reinserirsi appunto nel mercato del lavoro, vorrei che ci rispondesse all'ascoltatrice appunto che ci ha chiamato prima che ci ha raccontato di appunto questa sua condizione di disabile al 75%, un'invalidità al 75%, un'esperienza anche piuttosto articolata dal punto di vista professionale, ma adesso addirittura ha usato parole molto forti, Francesca, prima, dicendo: mi sento proprio buttata nel cassonetto. Direi innanzitutto a Francesca che non sono ammessi i momenti di sconforto, nel senso che col curriculum che ci ha raccontato e quindi le competenze che ha e la situazione a cui faceva riferimento, penso che si tratti proprio di un momento critico che si può superare. Io l'invito che faccio a Francesca, oltre che a alle persone che si ritrovano nella sua stessa situazione, in una situazione analoga, di innanzitutto di fare, in termini generali, prima di entrare in contatto direttamente con noi, di fare una valutazione di quelle che sono veramente le esperienze e le competenze che ha a disposizione, dove le può mettere a disposizione sul territorio in cui vive, perché penso a Francesca magari al limite di poter che può incontrare un limite nell'individuare delle realtà in cui poter dare continuità all'attività di istruttrice di equitazione. Forse quello è l'unico limite che posso vedere, perché sono molto ridotte le situazioni di questo genere. Però al di là di questo, un'esperienza come psicologa ha un percorso professionale, ritengo almeno delle cose che ci sono state importanti, possiamo accordarci in base alla sua residenza su qual è l'ufficio nostro più vicino per poterla contattare. Può o inviare a fondazione.adecco@adecco.it il suo curriculum, o farlo attraverso il sito adecco.it nella sezione candidati. E lei, sulla sua situazione particolare, magari anche attraverso la redazione, poterla contattare immediatamente dopo il programma per poter chiudere il contatto immediato. Per tutti rimangono aperti questi due canali. Però insomma, la prima indicazione che lei molto concreta ha dato è stata questa: guardatevi attorno, valutate se nel vostro territorio esiste la possibilità concreta di poter sviluppare la vostra attitudine, la vostra professionalità. Anche per le persone con disabilità magari può essere necessario spostarsi, ci possono anche essere le condizioni in cui si può fare questo, per cui ecco, forse anche questo movimento crea ulteriore momento di positività, anche se poi mi rendo conto che noi magari da qua spendiamo tante parole, non è certo sempre semplice, però insomma guardiamoci anche attorno. Detto questo, abbiamo buttato giù dal letto, è proprio il caso di dirlo, Pier, che salutiamo perché è nel posto dove noi in questo periodo dell'anno vorremmo tutti essere, Pier, a New York intanto. Benvenuto e buongiorno. Buongiorno. Pier, grazie, colazione fatta. Colazione da Tiffany fatta, aggiungerei. Ecco. Pier, allora anche purtroppo perché confuso orario ancora non sono ben completamente lucido. Di conseguenza. Però siccome nonostante tutto la tua storia la conosci molto bene, anche allora nonostante ti chiamiamo tutte le mattine, guarda. Ci puoi raccontare la tua storia, Pier? Qual è la tua storia? In un minuto, purtroppo non abbiamo molto tempo, ma so che sarai incisivo ed efficace. Sarò sinteticissimo, certo. Allora, 46 anni, mi è successo di infortunio, per cui con tutte le dinamiche negative che questo comporta, diciamo che ho passato un periodo in segregazione in casa senza voler vedere persone intorno tranne i miei cari, ma a un certo punto ho dovuto tirare una riga, questo per rientrare, ricominciare insomma una vita. Quindi gli obiettivi erano ricollocarsi nel mondo del lavoro, nel mondo dello sport, perché comunque io ho sempre giocato a calcio, e quindi ho cercato delle situazioni adatte a me. Ho trovato istituzioni e strutture come Adecco Fondazione che mi ha dato questa possibilità, per cui facendo questo iter, questo percorso insieme a loro, mi ha dato la possibilità di nuovo di credere in me e soprattutto quello di capire esattamente, con la mia disabilità, a me manca completamente un braccio, quali potevano essere di nuovo le mie competenze, certo, e quindi dove potevo andarmi a ricollocare, perché la difficoltà poi è quella: per tutta una vita hai fatto determinate cose, dopo ti ritrovi a non poterle più fare. E quindi, cosa stai facendo adesso a New York? Scusa, toglici questa curiosità che abbiamo tutti in questo momento, sei lì per vacanza o comunque per la tua attività lavorativa? Ecco, questo potrebbe essere da stimolo per altre persone, e New York era un obiettivo vacanziero da passare con i miei figli, era un sogno che avevo con i miei figli, grazie a Fondazione, ecco, grazie a Rientro al Lavoro, grazie a tutte queste cose, ecco, sono riuscito a coronare il sogno insieme ai figli, sono qua per vacanza. Ottimo, grazie. Bene. Pier, allora in bocca al lupo per tutto naturalmente, per questa però... seconda chance. Esattamente, Pier. Però lui giustamente ha detto: la mia condizione fisica prima di tutto era completamente cambiata, dovevo anche lì, insomma, intanto mi è piaciuta moltissimo la frase che ha usato, ho dovuto tirare una riga, e dopo il momento di difficoltà comprensibile chiaramente è riuscito a farlo, ha ricostruito un po' tutto il suo percorso professionale, ha cercato di capire dove in una condizione di quel tipo potesse essere utilmente impiegato. Dottor Soldai ce l'ha fatta. Volevo andare con lei al tema novità sul fronte del lavoro e disabilità con l'approvazione dei decreti attuativi del Jobs Act di settembre, che hanno rimodulato l'accesso al lavoro appunto delle persone in queste condizioni. Non abbiamo molto tempo, ma ci fa un quadro generale, sì, di questo nuovo provvedimento? Esatto, e diciamo che il decreto 151, che come diceva è entrato in vigore adesso a settembre, interviene più punti sulla legge 68, che è quella che riguarda il collocamento mirato delle persone con disabilità, e interviene modificando, a mio parere, se riusciamo a declinare operativamente tutti i contenuti, sicuramente migliorerà sia l'applicazione della norma che l'occupazione delle persone con disabilità. Diciamo che le principali novità, così chiudiamo in maniera molto breve, che ritengo utile, sì, condividere, sono tre. Uno, che le aziende potranno fare nell'atto dell'assunzione della persona con disabilità la chiamata nominativa, che nella legge 68 era prevista parzialmente, quindi oggi anziché ricevere la persona con disabilità dalle liste del collocamento mirato posso individuarla come azienda e chiamarla, come quindi andare dentro chiaramente l'iscrizione al collocamento mirato, andare a scegliere la persona con disabilità che è più in linea con le mie esigenze. Il secondo intervento interessante è quello legato all'obbligo che le aziende con 15 dipendenti, che sono la stragrande maggioranza del nostro tessuto produttivo, hanno. Fino all'entrata in vigore di questo decreto, l'azienda con 15 dipendenti aveva l'obbligo di assumere una persona con disabilità solo nel momento in cui avesse fatto la sedicesima assunzione. Mm-hmm. Col decreto invece viene meno questa indicazione, e le aziende al quindicesimo, quindi con 15 dipendenti, hanno l'obbligo senza dover aspettare la nuova assunzione. Chiaro. Il terzo elemento è quello legato agli incentivi. Gli incentivi che vengono incrementati, riconosciuti all'azienda, sì, che fa questa assunzione. Esatto, il 70% della retribuzione, poi variano in funzione alla gravità della disabilità, quindi aumentano nel tempo, che arrivano fino a 36 mesi di riduzione della contribuzione. E la cosa interessante, arrivano a 60 per la disabilità intellettiva e psichica, a 60 mesi, la cosa interessante è che riguardano il 70% della retribuzione mensile, e diversamente dal passato questo riconoscimento avviene nella compensazione con l'INPS, quindi ho una possibilità di avere immediatamente il beneficio di questo incentivo, perché a fine anno, quando devo fare i contributi, i versamenti contributi INPS, faccio la compensazione con quanto invece prevede questo. Certo. Grazie per la sintesi, dottor Soldà, per aver sintetizzato appunto in tre punti fondamentali le novità normative. Non riusciamo a sentire Matteo da Frosinone, ma lo preghiamo di scriverci a cuoredenari@radio24.it, così come tutti gli altri che non siamo riusciti ad ascoltare. Ci hanno chiamato peraltro rappresentanti, presidenti già di associazioni molto attive sul territorio con questo stesso obiettivo. Ci fa piacere questa condivisione di esperienze. Noi ringraziamo tutti i nostri ospiti di questa mattina e naturalmente ritorneremo, visto che vi è risultato particolarmente apprezzato questo argomento, ci ritorneremo al più presto. Grazie a tutti, adesso direi che cambiamo è l'ora di cambiare pagina. Un fiore in bocca può servire, non ci giurere, ma dove voli? Farfallina. Sì, è una farfallina, è piccola, è posta alla base del collo, è una ghiandola fondamentale per la nostra salute che svolge numerose diverse funzioni. Oggi parliamo di tiroide, ne abbiamo parlato tante volte, potete trovare in archivio le puntate. La tiroide è una ghiandola che, come ogni parte del nostro corpo, può ammalarsi, quindi funzionare troppo poco, infiammarsi e o diventare sede di noduli e di neoplasie. La puntata di oggi, come sempre, prende spunto dall'attualità e gli esperti lanciano un allarme perché i casi di tumore della tiroide stanno aumentando significativamente, si parla del 200% negli ultimi 20 anni. Allora, una cifra da capogiro di cui chiediamo ragione alla professoressa Laura Fugazzola, professore associato di endocrinologia all'Università di Milano. Professoressa, buongiorno e grazie. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, professoressa, i tumori della tiroide, dicono i dati, sono in crescita. Fortunatamente nella gran parte dei casi questi tumori sono scarsamente aggressivi e facilmente curabili, tanto che si può parlare di completa guarigione in quasi il 95% dei casi. Ma a cosa si deve questo straordinario aumento? Al miglioramento della diagnostica, all'aumento della capacità di individuare il tumore anche nelle sue fasi iniziali, o c'è dell'altro? Condizioni di vita, situazioni, abitudini, fattori esterni, ambientali? Allora, ci aiuti a capire chi possiamo chiamare in causa. Allora, dunque, sicuramente posso confermare questo aumento impressionante dell'incidenza del tumore della tiroide, non solo in Italia, ma in tutte le nazioni industrializzate, quindi dall'America fino alla Cina, al Giappone, si assiste a questo aumento di incidenza. Per quanto riguarda i fattori che possono causare il tumore della tiroide, c'è certezza solamente sulla radiazione esterna del collo, sia essa una radioterapia esterna, oppure anche, come abbiamo visto, gli incidenti nucleari tipo Chernobyl. Questi possono causare, ma va naturalmente precisato che in Italia non c'è stato alcun effetto da parte di quell'incidente nucleare, e comunque questo effetto non c'è nemmeno più praticamente in Bielorussia, perché sono passati molti anni. Quindi queste sono le uniche cause vere che noi conosciamo. Per il resto la motivazione di questa aumentata incidenza non è nota. Certamente adesso c'è una maggiore attenzione proprio alla tiroide, quindi c'è più diagnostica sulla tiroide, più ecografie. Ormai è facilissimo che un medico, uno specialista abbia a disposizione un ecografo, e quindi vada a rilevare dei noduli tiroidei. 800 24 0024 per parlarne con noi, se avete dei dubbi, delle domande, se volete raccontare la vostra esperienza, se durante magari un'ecografia è stato intercettato un piccolo nodulo, chiamateci. Professoressa, quindi questo aumento in parte possiamo anche spiegarlo con il miglioramento della tecnologia, che oggi permette di intercettare neoplasie anche molto piccole che magari un tempo non venivano individuate. Il problema è che spesso la diagnosi arriva per caso tramite ecografie fatte per altri motivi. Quello mi chiedo, ma esiste un profilo di rischio? Considerata la preferenza di questa ghiandola per noi donne, azzarderei a dire donna. E poi, professoressa, cosa allora, potremmo sicuramente mettere? Sicuramente il sesso femminile, come per tutte le patologie della tiroide, è più colpita anche dal tumore della tiroide e dal nodulo tiroideo, quindi sia dal nodulo tiroideo benigno che dal nodulo tiroideo maligno, con diciamo una proporzione di 4-1, quindi 4 donne per un uomo hanno più frequentemente questa patologia. Ed effettivamente la diagnosi occasionale, per esempio durante una visita ginecologica, succede che la ginecologa dice: ma ti do un'occhiata anche alla tiroide, e è frequentissimo ritrovare dei noduli tiroidei nella donna. Naturalmente solo una minima parte di questi noduli sono maligni, però sicuramente a quel punto si innesca tutto un processo diagnostico che in anni passati non si sarebbe innescato. Stesso caso per esempio per l'ecocolor Doppler dei tronchi sovraortici, che sono frequentemente richiesti ora anche dal medico di medicina generale, e che passando la sonda sulla tiroide riescono a evidenziare dei noduli occasionali o incidentali. Naturalmente nella maggior parte dei casi si tratta di formazioni benigne, ma una volta che è stato individuato naturalmente partono i controlli, perché bisogna vederci chiaro. E se volete saperne di più, 800 24 0024, raccontateci luce e ombre della vostra tiroide. Roberta da Roma, buongiorno. Altro che farfallina, buongiorno, tutta colorata. Sì, Roberta la sentiamo. Buongiorno. Benissimo, allora buongiorno adorate, buongiorno, oggi sto in vena. Allora io vorrei dire una cosa, ho 58 anni, faccio prevenzione in tutti i sensi da quando ne ho 18, ho donato il sangue fino allo scorso anno, e sempre considerati i valori dell'ormone tiroideo che erano nella norma. Lo scorso anno, nello specifico a cavallo tra febbraio ed aprile, la mia dottoressa, benché non ci fosse nessuna stelletta che lo segnalasse, mi ha consigliato un'ecografia. Fatta l'ecografia, diversi nodi, il nodulo sospetto, per cui rimozione della tiroide. Mi hanno chiesto, vuole toglierla tutta o solo il lobo sinistro? Io l'ho preferito toglierla tutta, non sono stata trattata in quanto era di 6 mm, per cui non necessitava di. Vorrei capire un attimo se, siccome poi nell'arco dell'anno successivo va tenuta in considerazione un'altra ecografia, ma perché mai la dovrei fare se la tiroide è stata rimossa? Grazie Roberta, perché con la sua testimonianza ci permette di affrontare tanti temi. Ha detto che si controllava con la misurazione degli ormoni tiroidei, è un aspetto che vogliamo considerare con lei, un nodulo di 6 mm, ancora una volta trovato per caso, l'asportazione della tiroide, e quindi la domanda sorge spontanea: che cosa devo controllare se la tiroide non c'è più? Professoressa. Allora, è un caso veramente molto interessante, perché poi ci fa capire come questa sia stata una diagnosi incidentale, perché il medico di base ha proprio richiesto un accertamento in più. Effettivamente il nodulo tiroideo raramente dà delle alterazioni della funzionalità tiroidea, e in particolare il nodulo maligno della tiroide non porta ad alcuna alterazione, quindi il TSH è normale, gli ormoni tiroidei sono normali. Esiste un unico tipo di tumore della tiroide che si può diagnosticare con un prelievo, ma è molto raro, ed è il carcinoma midollare della tiroide, con il dosaggio della calcitonina che dovrebbe essere richiesta quando c'è un nodulo tiroideo. Noi facciamo una diagnosi precoce di questo tumore, però questo tumore è una minoranza di tutti i tumori della tiroide, e nel caso della signora non c'era possibilità di scoprirlo con gli esami ematici, è stato scoperto con l'ecografia. La tiroide è stata rimossa completamente. Perché c'è indicazione a ripetere l'ecografia? Perché potrebbero esserci dei linfonodi del collo metastatici. Questo tumore dà delle piccole metastasi ai linfonodi del collo, qualche volta, non sempre, generalmente i tumori così piccoli non lo fanno mai, però è giusto almeno una o due volte nel follow-up controllare, fare un'ecografia non della tiroide che non c'è più, ma del collo. Questa è l'indicazione. 800 24 00 24, restate con noi, adesso andiamo a sentire che cosa Deborah ci racconta dei mercati, ma prima volevo leggere un messaggio di Bruno che ci scrive: noi abbiamo detto che lei ci ha ricordato che il nodulo, i noduli sono sempre asintomatici. La domanda di Bruno è: da qualche mese a questa parte devo schiarirmi la voce perché avverto come una pressione sotto il pomo d'Adamo, mia moglie nota un leggero rigonfiamento. Potrebbe essere un nodulo? Professoressa. Allora, dunque, questo è uno dei tanti motivi per cui viene richiesta l'ecografia del collo, che per caso poi va a trovare il nodulo tiroideo. Allora, questo tipo di sintomatologia è nella maggior parte dei casi dovuta a reflusso gastroesofageo, quindi tipicamente questo reflusso, anche se uno non ha la sensazione di acido in bocca, diciamo, provoca proprio questo raspino in gola, la necessità di schiarirsi la voce. Certo, però, se palpatoriamente si apprezza una tumefazione che è diversa da quella del pomo d'Adamo, è indicata l'esecuzione di un'ecografia. Ma secondo lei, intanto io e Deborah ci stiamo reciprocamente guardando il collo e schiarendo la voce, ogni tanto è bene provare un po' a fare un'autopalpazione, oppure si crea dell'allarme inutile? Perché no. Ecco, vero. Allora, la interrompo su, è meglio non farlo. La tiroide deve essere palpata da specialisti, perché altrimenti nel collo ci sono una serie di piccole strutture dure, che sono per esempio gli anelli della trachea, e succede a noi specialisti di trovare pazienti allarmati perché hanno sentito questa cosa dura che è o il pomo d'Adamo o un anello della trachea. Ecco, per quindi meglio farlo fare a noi. Bravo, la farfallina, questa ghiandola va toccata, palpata da mani espertissime. È un pochino snob. Andiamo a sentire i mercati. Mercati, tra poco. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Cuore e Denari. E Eccoci qua, siamo tornati insieme. Oggi dedichiamo questa seconda parte della trasmissione a un tema di grande attualità. Sono in aumento i casi di tumore alla tiroide. Stiamo leggendo questa notizia con la nostra esperta che è tornata a trovarci, la professoressa Laura Fugazzola, associato di endocrinologia all'Università di Milano. Abbiamo tantissime domande, le passerei subito, professoressa, la telefonata di Marco da Brescia. Marco? Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. E poi torniamo ad occuparci dei noduli. Marco. Sono Marco da Brescia, ho 34 anni. Sì. E volevo dire un po' la mia esperienza. Io da un anno fa circa mi hanno diagnosticato l'ipertiroidismo. Mm-hmm. Quindi sono sotto cura, sotto tapazzole sostanzialmente. Mm-hmm. La mia domanda, io ho fatto un'ecografia poco tempo fa, un mese e mezzo fa, e fortunatamente non ho noduli sospetti. Volevo sapere se c'era la possibilità di una completa guarigione in questo senso dell'ipertiroidismo e sapere anche, come seconda cosa, se nel corso di questa cura più avanti possono manifestarsi dei noduli sospetti, nonostante oggi non ci siano e magari la cura... Professoressa Fugazzola, la domanda di Marco ci dà lo spunto anche per rispondere ai tanti ascoltatori che ci chiedono se patologie tiroidee possono in qualche modo dare origine poi a dei noduli e quindi ipertiroidismo, ma anche tiroiditi autoimmuni. C'è un legame? Allora, diciamo che non c'è alcun legame, si tratta proprio di patologie diverse della tiroide. Da una parte abbiamo una patologia autoimmune che può determinare l'ipertiroidismo o l'ipotiroidismo e dall'altra parte è proprio un'altra malattia della tiroide scollegata, quella che dà la formazione nodulare tiroidea, sia benigna che maligna. Quindi non ci sono elementi per sospettare che nel caso del nostro ascoltatore in un futuro possa svilupparsi un nodulo tiroideo. Diciamo che non ha più probabilità rispetto a un soggetto normalissimo di sviluppare un nodulo tiroideo. Per quanto riguarda la sua patologia, quindi l'ipertiroidismo in terapia con tapazzole. L'ipertiroidismo, lo ricordiamo, è la tiroide che funziona troppo, no? Che va un troppo. Po' a passo sostenuto, troppo. E ipo invece quando funziona poco, più lentamente. Esattamente. Ci sono in realtà due cause di ipertiroidismo. Una è proprio un nodulo tiroideo che si mette a funzionare troppo, diciamo in maniera autonoma, non più controllato. Si monta un po' la testa e vuole fare lui una... Esatto, e questo dà luogo a un ipertiroidismo generalmente meno grave rispetto a quello autoimmune, il morbo di Graves base, dove invece, che provoca un ipertiroidismo generalmente più grave, si cura con il tapazzole e si assiste dopo il trattamento con questo farmaco circa, che viene prolungato per circa 10-12 mesi, in una minoranza dei casi si ha la guarigione completa. Spesso, nella maggioranza dei casi, circa il 60-70%, si ha la recidiva dell'ipertiroidismo e quindi si fanno dei trattamenti un pochino più, noi li definiamo definitivi per l'appunto, con lo iodio radioattivo oppure con l'intervento chirurgico, proprio per andare a distruggere completamente questa tiroide impazzita. La tiroide impazzita che può essere sede, come dicevamo, anche di noduli. Professoressa, un tempo si parlava di noduli caldi e di noduli freddi, si parla tuttora, si fa ancora questa distinzione, ma assume un significato diverso, ce lo spiega per favore? Allora, sì, il nodulo caldo è proprio questo nodulo che descrivevamo prima, questo un po' impazzito, che autonomamente decide di produrre troppi ormoni tiroidei. Questo è un nodulo caldo, quindi capta tanto iodio per fare tanti ormoni tiroidei. Il nodulo freddo in realtà è sempre stato considerato il nodulo maligno, ma non è così, perché quasi tutti i noduli tiroidei sono ipocaptanti, cioè freddi. All'interno dei noduli freddi una minima percentuale sono noduli tumorali maligni, ma avere un nodulo freddo vuol dire avere un nodulo normalissimo, non avere un nodulo maligno. Andiamo ai nostri ascoltatori. Susi dalla provincia di Vicenza, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Susi. Io sono 72enne e da 3 anni mi è stato riscontrato un nodulo di 2,5 cm. Gli ormoni non sono alterati e non so se poter fare e dover fare l'ago aspirato e che rischi può comportare. Allora, professoressa, ci parla di dimensioni del nodulo, sicuramente sono importanti. Fa la differenza. Abbiamo parlato di noduli piccolissimi. Esatto, prima di millimetri addirittura. Di millimetri, adesso di noduli che hanno una certa dimensione. Ecco, allora, qui abbiamo ancora una dimostrazione del fatto che la presenza di un nodulo non modifica minimamente, a parte rari casi di questi noduli impazziti, la funzionalità tiroidea. Quindi una tiroide che funziona normalmente con un nodulo di 2,5 cm. Allora, generalmente per i noduli superiori a 1 cm c'è sempre un'indicazione a fare la citologia su ago aspirato. Anche se le ultime linee guida, che sono proprio uscite da pochissime settimane, le linee guida americane ci dicono... Per questo noi vogliamo stare sul pezzo, vede? Ecco, come si dice? Veramente, ci danno delle indicazioni precise su questo, con le quali io concordo assolutamente, cioè l'ago aspirato facciamolo solo se ci sono dei sospetti ecografici. Quindi questi noduli devono essere valutati da ecografisti esperti. Se il nodulo può essere anche di 4 cm, ma ha delle caratteristiche di assoluta benignità, per esempio i noduli cistici che sono pieni di liquido e basta, non è necessario andare a vedere con una citologia se questi sono maligni. Invece dei noduli, magari anche molto piccoli, ma con delle caratteristiche sospette, vanno ago aspirati. Con l'ago aspirato non ci sono rischi di nessun genere. Noi addirittura lo facciamo in pazienti che fanno la terapia anticoagulante senza fargliela sospendere. È come un prelievo di sangue, lo stesso impatto, diciamo, sul paziente. Quali sono le attenzioni, professoressa, che deve avere una persona a cui sono stati diagnosticati dei noduli? Quindi il controllo? E ci sono delle altre attenzioni particolari? Deve evitare alcune cose, magari correggere un po' lo stile di vita? Allora, dunque, per l'unica prevenzione che noi conosciamo per evitare la formazione di noduli è l'uso del sale iodato. Quindi questo è fondamentale, perché la nostra tiroide forma i noduli anche perché deve lavorare un po' troppo, fare troppa fatica a lavorare, perché nel nostro ambiente c'è troppo poco iodio. Quindi è importante che noi da subito, da bambini, iniziamo a utilizzare in cucina il sale fine e grosso addizionato di iodio. Questo è importante. Quando i noduli ormai ci sono, il sale iodato non può più combatterli, però è importante quindi semplicemente seguirli nel tempo. Prima di tutto seguire la funzionalità tiroidea, proprio perché uno di questi noduli potrebbe impazzire, quindi dare questo ipertiroidismo di cui parlavamo prima. Quindi la funzionalità tiroidea va misurata ogni anno circa, e l'ecografia va eseguita ogni 12-18 mesi, proprio per controllare che i noduli non crescano troppo velocemente. Questo sarebbe un indice di possibile malignità di questo nodulo e quindi ci darebbe indicazioni magari a fare un ago aspirato. Abbiamo tante volte sottolineato che la tiroide è un debole per noi donne. È vero. Ci sono delle fasi della vita di una donna in cui è più facile che la tiroide batta un po' i coperchi, impazzisca? Sì, certamente le fasi critiche della vita della donna la predispongono allo sviluppo della patologia autoimmune, e quindi per esempio l'età dello sviluppo, la gravidanza, il parto, la menopausa, ma anche fattori tipo grossi lutti, stress particolari, tutte queste cose fanno sì che donne predisposte allo sviluppo di autoimmunità tiroidea la sviluppino, diciamo in quel momento, sviluppino la patologia tiroidea, ipo o ipertiroidismo. Ipo e iper, ci sono anche tante telefonate che riguardano appunto questo diverso modo di funzionare della tiroide: lavora troppo poco, i segnali naturalmente sono diversi, bisogna come sempre arrivare ad una diagnosi, a volte sono un po' sfumati. Parliamone, 800 24 0024, e subito dopo le informazioni sul traffico torniamo insieme. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta e denari. Ultima parte di Cuore Denari dedicata alla tiroide. Negli ultimi tempi si ammala di più, diventa più frequentemente sede di neoplasia. Per fortuna si tratta di tumori scarsamente aggressivi, ma naturalmente bisogna arrivare ad una diagnosi e vederci chiaro. 800 24 00 24, avete tempo ancora di intervenire per proporre i vostri dubbi, i vostri quesiti alla professoressa Laura Fugazzola, associato di endocrinologia all'Università di Milano, che è in linea con noi, come Lorenzo, che ci chiama proprio da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Uomo tra di noi. Sì. Volevo portare la mia testimonianza in merito appunto alla tiroide. Io ho avuto un'asportazione totale della tiroide, ho 38 anni, l'ho subita 7 anni fa e da allora devo dire che comunque vivo benissimo. Ecco, quella è la cosa. Ecco, grazie Lorenzo per questa sua testimonianza. Questo è importante anche per le persone che ci ascoltano e che magari devono affrontare un'operazione di questo tipo. Sì, perché anche ho notato che nella mia operazione, che è stata un po' particolare perché sono partita da una formazione cistica sottomandibolare, che non riuscivo a capire cosa fosse, me la sono tenuta per mesi, poi mi sono fatto operare in un ospedale in Friuli Venezia Giulia, che però non aveva correttamente poi diagnosticato. Sì, quindi è stato un percorso un po' particolare, un po', però devo dire che adesso siete venuti a capo del problema. Non sì. Ha la tiroide, la sua domanda, Lorenzo? Se esistono, visto che ho sentito parlare anni fa, di farmaci sperimentali che possono ovviare poi all'utilizzo dell'Eutirox, che è una cosa invece giornaliera. Certo, perché va, professoressa, noi dobbiamo somministrare quello che la tiroide non è più in grado di produrre. La terapia sostitutiva. Esatto, certamente. È fondamentale assumere la terapia con tiroxina. Allora, diciamo che non esistono delle terapie al momento che consentano di non assumerla giornalmente. Sono uscite delle nuove formulazioni di tiroxina che invece quindi della classica pastiglia compressina, sono invece delle formulazioni liquide che sono meglio assorbibili e quindi possono essere assunte non 20-30 minuti prima della colazione, ma 5-10 minuti prima della colazione. È la stessa tiroxina, tranne che in formulazione liquida, per cui sono anche molto comode, per esempio per i bambini, in questo tipo di formulazione. Mi verrebbe da dire per chi va di fretta, no? Per chi va di fretta, esatto. Ecco. Quasi tutti. Professoressa, allora, lei ha citato sale iodato e deve promettermi di venire una volta perché solo dobbiamo per parlare tutto. E se io prendo il sale dell'Himalaya, e se io prendo il sale integrale, e se prendo il sale nero, rosso, rosa, eccetera, e il sale iodato è un'altra storia. Sì, certamente, è proprio un'altra storia. Anzi, proprio il sale marino che qualche volta troviamo nei supermercati, con scritto proprio sale marino, è quello che contiene meno iodio di tutti, perché viene ottenuto nelle saline, quindi viene fatto proprio essiccare, no? Come si ottiene il sale normalmente. Lo iodio è elemento assolutamente volatile, per cui tutto lo iodio che questo sale dal mare aveva preso se ne va nell'aria e quindi non ne contiene per niente. Per questo noi dobbiamo addizionare con dello iodio il nostro sale, ma il sale dell'Himalaya, tutti gli altri sali non contengono iodio, quindi dobbiamo assolutamente acquistare solo il sale addizionato di iodio. Per chi soffre di iperiodismo, ci scrive un ascoltatore via WhatsApp, è consigliabile l'uso del sale iodato? Allora, chi soffre di ipertiroidismo in realtà sarebbe meglio non lo usasse. Perché noi forniamo alla tiroide dei mattoni, cioè lo iodio, per fare ormone tiroideo e questa tiroide già ne fa troppo, per cui sarebbe meglio che noi non glieli fornissimo. Però la quantità di iodio contenuta nel nostro sale comunque ci porta ad avere un introito di iodio giornaliero che non è nemmeno paragonabile con quello che hanno gli americani, per esempio. Comunque certo, siamo su quote basse di iodio in ogni caso, e quindi se per caso il paziente con l'ipertiroidismo assume sale iodato perché in famiglia c'è quello, non importa, non ci sono grossi problemi. Professoressa, noi la ringraziamo per essere stata con noi. Adesso noi andiamo a scrivere una favola con i nostri ascoltatori. Se vuole partecipare, noi saremo felici, oppure vi ringrazio moltissimo. Estendere l'invito ad amici. Stiamo cercando una renna, peraltro, chissà che non non sia malata di tiroide, quindi si sia magari un pochino eclissata per questo motivo. Della professoressa Fugazzola, se vedo una renna ci chiami subito. Grazie e tanti auguri. Grazie di buon Natale e a prestissimo. A presto, arrivederci. Allora Deborah, intanto iniziamo a ringraziare i nostri ascoltatori che hanno risposto al nostro invito e si sono messi subito a scrivere. Al lavoro, altro che, ma d'altronde l'appello era stato rivolto da una persona alla quale non si può dire di no in alcun modo, che è il nostro amico Andrea Vitali. Insomma, tutti insieme stiamo scrivendo proprio la favola di Natale di Cuore e Denari, un'iniziativa natalizia pensata per tutti gli ascoltatori appassionati di scrittura. Sì, e poi vogliamo proprio che voi spargiate la voce. Prima dobbiamo svelare il contributo che abbiamo scelto per costruire la nostra favola. Per Andrea Vitali, Mercurio non arriva perché c'era sciopero per... Ma sulla pagina dedicata all'iniziativa troverete anche naturalmente il podio del secondo e terzo classificato. Allora diciamo che abbiamo scelto di non possiamo dirlo. Sì, che puoi dirlo. Allora, sono tre racconti che sono stati a nostro insindacabile giudizio scelto, non possiamo farlo. Daniela, Barbara e Rocco. Adesso andiamo a sentire il secondo incipit. Andiamo. Uno sciopero. Uno sciopero selvaggio che aveva coinvolto tutti i lavoratori del mondo, da nord a sud, da est a ovest, compresi naturalmente i postini. Fu Rudolf, la più anziana tra le renne che trainano la slitta del babbo, a informarlo. Dopo aver trascorso lunghi mesi lontane dal polo, in pascoli dove l'erba è sempre verde e la temperatura mite, rigenerate e pronte ad affrontare un nuovo giro del mondo in una notte, come al solito erano tornate da Babbo Natale il primo dicembre, portandogli le novità del mondo. Il babbo le ascoltava sempre con molta serietà, a volte borbottando frasi incomprensibili. 1 di dicembre. Allora, il contributo di Andrea Vitali potete ascoltarlo andando direttamente sulla pagina della favola di Natale dal sito di Radio 24, esatto, e completate naturalmente anche questo secondo incipit. Spargete la voce, scriviamo tutti insieme, imparate la canzone dei Solutumana. Esatto, il prossimo tris di neoscrittori natalizi lo naturalmente indicheremo domani. Buona giornata. A domani.